la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Matteo Fedeli è un violinista di 35 anni. La sua prima volta ha inizio tanto tempo fa, quando tra le mani si ritrova uno Stradivari. La sua vita non sarà più la stessa. La gente lo chiamerà in seguito l'uomo degli Stradivari. Ma guardi, è una dicitura che hanno utilizzato un po' di tempo fa con la stampa e è stato ripreso insomma anche per la pubblicazione di un libro che mi hanno dedicato, ma credo proprio in funzione del fatto che penso di essere l'unico insomma nel mondo ad aver utilizzato così tanti violini, quindi aver fatto circolare di nuovo per la gente questi violini. Si parla di più di 20 strumenti di Stradivari sparsi nel mondo e riportati, e qui ci tengo a sottolinearlo, in Italia, dove sono nati, per farli ascoltare nuovamente alla gente. Ai concerti di Matteo arrivano in tantissimi. L'uomo degli Stradivari si esibisce con un solo obiettivo, quello di diffondere arte. La prima volta di Matteo è dunque legata in maniera indissolubile agli Stradivari, violini che valgono da 2 a 4 milioni di euro, costruiti dal leggendario liutaio cremonese Antonio Stradivari tra il 600 e il 700. Per suonarli, Matteo Fedeli è costretto a stravolgere l'intera sua esistenza, viaggiare scortato, avere lui, un violinista, il porto d'armi. Ma quando i concerti arrivano in migliaia, Matteo vola alto, sogna e fa sognare, e tutto quel temere si volatilizza. Avvicinarsi ad opere così prestigiose e particolari è qualcosa di affascinante. È un privilegio che io appunto ho voluto condividere con tante persone, ma in effetti è un po' un qualcosa di speciale, perché il violinista di solito sceglie il violino, ma in effetti mi trovo molto spesso a pensarla al contrario, cioè è il violino che nei suoi secoli sceglie i violinisti. Quindi il violinista in quel caso entra a far parte della vita dello strumento, ecco, lascia un suo segnale, lascia il suo suono all'interno delle fibre del legno. E la cosa bella è che ogni volta che quel violino viene suonato, ecco che diciamo diventa un po' custode, custode dei segreti, e quindi ogni volta rivive il suono dei vari musicisti che l'hanno utilizzato nel tempo. E io spero di poter insomma aver lasciato qualcosa impresso nei violini che ho suonato. Cioè, voglio dire, con ogni violino poi ci si confronta, con alcuni si va d'accordo e con altri no, insomma ci sono delle motivazioni ben precise. Quindi, poiché questi Stradivari sono preziosissimi e ovviamente ambitissimi, lei ha deciso di prendere anche il porto d'armi e di trasformarsi, come lei in un'intervista dice, in una sorta di ispettore Callahan degli Stradivari. Sì, quello lì è un altro degli appellativi, diciamo che è stato toccato l'argomento perché, diciamo, per questioni di sicurezza più che altro personale, perché naturalmente questi violini sono tutti strumenti, diciamo, conosciuti, registrati e soprattutto sono assicurati, quindi ogni spostamento gode di particolari polizze assicurative per garantire ovviamente l'integrità, diciamo, degli strumenti. E poi c'è un servizio del personale che mi segue in tutte le attività, proprio perché i musicisti sono un po' distratti, hanno la testa per aria, alcuni lasciano i violini sui taxi, altri sui treni, e quindi io non posso permettere che questo succeda, per cui ho al seguito delle persone che mi aiutano appunto in questi spostamenti. Mediamente di che valore si parla per questi violini? Si va da quanto a quanto? Guardi, per gli esemplari più particolari, più preziosi, e parliamo dei violini del periodo d'oro 1710, 1725, 26, 27, si parla di assicurazioni che vanno dai 5 ai 10 milioni di euro. Questi sono dei valori standard che vengono attribuiti. Poi quelle che sono le trattative private, le vendite o le aste, chiaramente portano violini a costare anche 18 milioni di dollari, come il Lady Blunt del 21, del 1721, che è stato venduto dalla Nippon Music Foundation lo scorso anno da Sotheby's. In questi anni Matteo Fedeli ha suonato 7 diversi Stradivari, un'esperienza che inebria solo a pensarci. Ma la cosa più bella di questa storia, fatta di violini costosissimi, di guardie del corpo e porto d'armi, è questo ragazzo che suona davanti a chiunque, che apre le porte della musica classica alle persone più comuni, perché per emozionarsi spesso serve solo ascoltare. Matteo Fedeli, il violinista che per questi violini così preziosi ha stravolto l'intera sua esistenza, non ha dubbi. Quella volta in cui ha impugnato uno Stradivari è stata la sua prima vera volta. Tanti anni prima, quando Matteo era ancora un bambino, a 5 anni il suo primo incontro con la musica lo racconta così alla nostra Adriana Fracchia. Ho iniziato da giovanissimo, a 5 anni, con il pianoforte e con il violino subito dopo, quindi ho preso le prime nozioni musicali e dopodiché mi sono appassionato e quindi ho portato avanti per anni entrambi gli strumenti. E lei dove si è diplomato? A Milano. Sono diplomato a Milano e poi ho fatto una serie di, diciamo, corsi e di approfondimenti soprattutto in Austria con un maestro ungherese. Io ho iniziato col violino per i primi 5 anni e poi sono passato alla viola. Ho portato avanti comunque tutti e due gli strumenti perché chiaramente hanno diciamo delle caratteristiche tecniche in comune. Poi con la viola ho portato avanti anche una serie di concerti, ho, non dico esaurito completamente, però ho suonato moltissimo del repertorio violistico e poi mi sono cimentato appunto in parallelo anche col violino e questo insomma mi ha dato la possibilità poi di affrontare e di conoscere appunto alcuni collezionisti che mi hanno presentato questi violini Stradivari, mi hanno dato l'opportunità di suonarli e da lì è partito un viaggio molto affascinante. E il primo Stradivari che ha suonato, se lo ricorda? Il primo Stradivari è stato il Maurin Rubino, fu un violino del 1731, un violino in cui c'era tutta, diciamo, la maturità e l'abilità di uno Stradivari che aveva quasi 90 anni in quel periodo e insomma c'era tutta la sua esperienza, quindi un giovane violinista che si avvicina per la prima volta ad uno degli Stradivari più maturi in assoluto, con il concerto tra l'altro di Tchaikovsky. Ecco, ma il segreto di questi violini qual è? Perché se ne è parlato tanto, si è parlato delle vernici, del legno che veniva usato, ma in realtà non si sa esattamente qual è il segreto. Ma guardi, sono molteplici i fattori che concorrono, diciamo, ad aver creato dei capolavori di questo genere. Innanzitutto dobbiamo identificare un periodo ben preciso, cioè che è quello d'oro. Stradivari inizia a costruire questi capolavori quando ha 70 anni e quindi già lì molti altri liutai non sono arrivati a quell'età. E questo, voglio dire, non è frutto di una formula segreta o particolare, ma è frutto di una grande esperienza di Stradivari, di una grande manualità e di una approfonditissima conoscenza dei legni. Come dicono anche gli Hill, una celebre famiglia di liutai inglesi che hanno avuto per le mani gran parte degli Stradivari ancora esistenti, hanno identificato quindi la scelta dei legni, il tipo di lavorazione che veniva fatta e poi la verniciatura, che non è un elemento da sottovalutare in quanto probabilmente le sostanze che si mettevano all'interno della vernice erano conosciute, ma il modo in cui Stradivari metteva la vernice, lasciava asciugare i suoi strumenti, era forse un qualcosa di particolare e di segreto. E questo può essere uno dei fattori che concorrono a questa diciamo particolare voce degli Stradivari. Ecco, ci sono però alcuni, forse detrattori in questo senso, che dicono che in realtà gli Stradivari non sono più quelli originali, perché hanno avuto talmente tante manipolazioni, ristrutturazioni, rimaneggiature, che insomma in sostanza non sarebbero probabilmente più simili all'originale. Lei cosa pensa? Ma guardi, c'è stato un'epoca in cui il violino, diciamo, rispetto a quello barocco è stato ammodernizzato, ma questo riguarda una parte, diciamo, dello strumento, ovvero la catena, che diciamo è un pezzo di legno che è inserito all'interno della tavola e è stata allungata e modificata perché il la, che è diciamo la di accordatura dello strumento, è stato portato dalla frequenza di 415 MHz a 440, quindi con una maggiore tensione dello strumento, quindi le corde in pratica, essendo accordate più alte, gravavano in maniera maggiore sullo strumento, quindi questa catena è un supporto che viene dato per il sostegno e la diffusione del suono. Poi è stato modificato il ponticello, però voglio dire, questa è una è un accessorio, quindi non è stato stravolto in questo senso il violino. C'è stato un ammodernamento del manico per permettere un tipo di particolare tecnica violinistica moderna, ma ricordo che il manico non ha una funzione sonora, quindi diciamo che la scatola vibrante del violino non ha subito delle modifiche essenziali. Questo riguarda tutti i violini del 500, del 600 e della prima parte del 700. Diciamo che il violino, alla fine il legno è ancora quello, ecco, quindi con restauri, con tutta una serie di accorgimenti, però voglio dire, il legno è ancora quello, proprio perché il legno è vivo, il legno si modifica e acquista sempre una maggior bellezza. È ovvio che da una parte abbiamo l'antichità dello strumento, dall'altra dobbiamo anche fare insomma una sorta di restauro, un ammodernamento e una continua manutenzione a questi strumenti, quindi è assolutamente una prassi in questo senso. Di tutti gli Stradivari che lei ha suonato, ha sentito un richiamo maggiore verso quale di questi? Ma guardi, ce ne sono alcuni, a me è sempre una domanda difficile, dalla difficile risposta, perché il violino per me è uno strumento vivo e quindi non vorrei fare torto a nessuno di loro, però devo dire che ci sono alcuni violini di quelli che ho suonato che hanno risposto immediatamente. Qui torno al discorso di prima, evidentemente qualcuno di questi violini ha gradito magari di più la mia presenza e quindi siamo entrati in sintonia e diciamo il violino ha aperto questo suo scrigno e mi ha rivelato un po' quelli che erano i suoi segreti e i suoi ricordi. Quindi credo che alcuni di questi violini, uno del 1711, uno che ho ad esempio conosciuto recentemente, che è il violino Bazzini, ho sentito all'interno delle sue corde proprio la voce della violinista De Vito degli anni 40. È stata una magia, cioè quello non era solamente il suono che io stavo producendo, non era solo frutto del mio braccio, ma c'era qualcosa in più. È una cosa da pelle d'oca a pensarci, ma veramente affascinante. Thank you. Questa è una storia di violini che hanno un'anima, di musicisti che si esibiscono gratis pur di far sentire alla gente comune cos'è uno Stradivari, di uomini e donne che spengono telefonini e si fermano rapiti dall'emozione di una musica che tocca il cuore e che resta impressa per sempre. Questa è una puntata che racconta la prima volta di un uomo che ha osato toccare con mano la storia e ha suonato violini del Seicento, sentendo in loro la vita di chi lo ha preceduto. Un violino che ha una voce, un violino che chiama. Noi ci fermiamo qui. Potete scriverci a laprimavolta@radio24.it o sentirci in podcast. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli.